Le 6:37 minuti, gioia di rivoluzione degli Area, gioia di rivoluzione un po' anche lo spirito con cui nei giorni scorsi XM24 ha atteso lo sgombero. Noi siamo in collegamento con appunto un attivista dentro al centro sociale, che saluto, buongiorno. Buongiorno, salve a tutti. Sì, buongiorno mica tanto, diciamo, però insomma. Ah, sì, giornatina. Allora, raccontaci quello che sta accadendo. Allora, sta accadendo che le guardie sono riuscite ad entrare, però si prosegue con una resistenza, come abbiamo detto tante volte, creativa, gioiosa. Il presidio è grande e animato e invitiamo tutte e tutti a venire, dai dai dai. Con pentole, glitter, presa bene, c'è da lottare contro il nulla che avanza e dagli forte. Abbiamo visto alcune immagini di ruspe per, come dire, sì, forzare il blocco? Sì, sì, hanno usato una ruspa, gli piace tanto in questo periodo storico la ruspa, e sì, quindi questo. Ok, quindi appunto le forze dell'ordine sono riuscite a entrare, però voi siete asserragliati? Sì, sono ancora asserragliati, si attende, quindi invitiamo tutte e tutte a partecipare, a raggiungere, perché la giornata sarà ancora lunga e sarà ancora da tutta da combattere. Certo, ecco, ci arrivava qualche segnalazione del fatto che ci sono forze dell'ordine che bloccano le persone anche a distanza, cioè non permettono di arrivare nei pressi di via Fioravanti 24, allora, è così? Per adesso di questo non sappiamo nulla. E, non ne sappiamo ancora nulla, per ora quello che sappiamo è che comunque a piedi si può passare, e di nuovo è un presidio gioioso, per quanto la giornata sia difficile e piena di rabbia, è un presidio che vogliamo il più partecipato possibile, rumoroso, e come è sempre stato XM24, che esiste e resiste. Ok, io intanto ti ringrazio, poi magari ci sentiamo più avanti nel corso. Più avanti. Grazie. Dai.